Quindi, sto andando un po'. quelli hanno toccato vita e goduto in passato. Dopo un anno parecchio pure. Infatti ti sento tutto il passato. Ma forse il microfono. Non è delle migliori microfono, sinceramente parlando. Come sono da rompere? Oh, sei tutto patatoni, non lo so. Tipo del microfono è classico. Tipo del microfono. Hola. Aspetta. Mi sto tirando pure un po' di fatto. Aspetta che abbasso, proviamo se migliora. Hola. Riesci a vedere? Ma un po' meglio va. Sì, adesso sì, un po' meglio, adesso va un po' meglio. Scappa. Sto spingendo un po' perché ci sono questi qua. Ho detto magari mi tappano, quindi anche per darmi fastidio, capito? E vabbè, l'importante è che va bene, là. Scappa. Questo giocattolino da 8 watt di pieni soltanto. Buono sì, ma minimo ogni vuole 20 anni più largo. Sì. Già funziona. A me piace che funzionino pure. Adesso sono tutti quelli che hanno lo scaffale. Capito che avevo portato da carbonati, ne ho portato altri. Se non ho detto una cassetta massata. E li sto provando. Sono tutti i baracchini ad hoc, questo è un Cobra, però è 25. Ieri stavo provando il Persipson, Inuite, Presidente, Najubogu di Valle. Però questo funziona e va bene. Capita, può servire, è grande quanto è umidi, l'ante va bene. Funziona il mazzo proprio, vero? Sì. C'è un po' di canali, al Mickey Game in tutto, squadra c'è volume, c'è FM. Va bene. Importante però ti ripeto le funzioni, è nuovo. E sto provando quelli con l'attacco a 4, perché poi c'ho l'HB525 e dopo l'HB23. Però non trovo il microfono suo originale, quello a 4 punte, a 5 punte. Se no avrei provato anche quello, quindi questi sono tutti col connettore a 4, capito? Quindi ho l'MB+5 con l'adattatore e questo sta funzionando. No, certo. Se ti ora chini, no, non vai nulla. Aspetta che provo l'altro, vediamo come va. Questo Inuit 23 canali, base, perché anche questo non ho ancora provato. Sempre con lo stesso microfono, però quello che la lancetta spinge di meno, quindi anche questo funziona. Inuit 2025 23 canali, perfetto, e funziona Buruvizzo. Sicuramente non è colpa tua, non lo so, questi sono baracchini vecchi, ci hanno dato parlanti, c'è 20 anni che non li tratto le radio, anche questa era un'esposizione a carbonati, da carbonati ne ha già legati i nodi, li ho tutti messi in uno scaffale, ordinate, bene, in ordine, capito? Li sto provando piano piano, ma ci ho avuto 20 anni nodi, più ora di cantare i giocoladi. Facendo prove, prova, no? Oh Claudio, vuoi vedere? E anche lì c'è una bella bomba. Questa va bene? Questa è chiarissima. Questa è l'Intec. L'Intec con microfono su. Ecco, questa va bene. Questa è pulita, è chiara. L'altra bocca si rimaneva tutta impastata. Cappa, questo è l'Intec col suo microfono, eh. Alla grande, vero? Sì, va bene, alla grande sì. Cappa. Ehi, Gabriele, questo ti mette così. Oh, vai tu col triciclo, corri tu col triciclo, mamma. Una cena, E io prendi il triciclo. Mi ha tirato un volante, mi ha tirato. Grazie, già smontendi. Già smontendi, ma quasi 3 anni con la rete. Ma hai visto come si cresce, eh? Già 3 anni. Il 28 di novembre c'ha 3 anni. Quello scorpione hai fatto. Dice di no. Pure io pensavo che era scorpione, invece no. Non è scorpione, sì, è dopo il 20, non è scorpione. Riccardo, grazie. Il 6 è il mio, il 6 novembre. Andare, ciappa. Allora, che questo funziona, mi stai dicendo così, altro, no? Certo che funziona. Questo è l'Intec FM 500S. È una schioppettata questa radio, me l'avevo regalata. Ehi, come ti dicevo, l'ho data in altura, simile a così, con la misura lì, all'FM 500S, così, sono baracchini che non muoiono mai, insomma. Non muoiono mai, dico, oh, cazzo, vedi, dita avrà 40 anni a radio. Adesso te lo attacco. Io ho un Galaxy, non è il Saturnecco, è un Galaxy, ho mandato la foto a Gianni Operunci, è innamorato, è una serie limitata, è un sintonia continua, non è a bande, c'ha display e frequenzimetro, ma sembra una TF, è una TF, la paura, chiamate bene. E la sintonia continua, parte da 25.500 a 28.500. Girendo la manopola, baromi, sintonia continua proprio, senza canali, no, A, B, C, no, tu giri e ti dai canale e la frequenza, canale e la frequenza. vediamo e poi ti mando la foto, insomma, sai quanto è bello. Bene. Meglio di prima? Meno amplificato. Meno amplificato? E come mai? Sì, vabbè, ognuno c'ha la radio, c'è la sua timbrica. Però è molto chiara la voce. Adesso più amplificato, so. Adesso va meglio. Ah, stai usando la mandoba 1, la cipolla. Smart Tech sto usando sempre, Smart Tech. La Smart Tech che ce l'ho per 10 metri, capito? E la mandoba 1. Sì, c'ho anche quella. Ma questa si è collegata lì. E beh, quindi con la modulazione va bene. Va benissimo, va. Che la mandoba 1, la carbonate, La sfortuna qua che c'ho la collinetta, se no. C'è lo del giardino l'antenna di natura, se la metto sopra il tetto allora Sassa la vede, ma così non la vede Sassa. Ah, già da lei, non me la fotti nulla, non è che l'importante è che ci sentiamo là, fra le due chiappe. Quindi questo ti piace? Sì, mi piace, sì, va bene. Come ti mando la foto? Come ti mando la foto? Cosa spettacolare, Gianni mi ha detto se glielo vedo, no, questo è un pezzo troppo raro, allora te l'ho mandato tanto. Veglia, questa vedi? Che cazzo, non l'avevo mai vista. No, ce n'è di quelle come collezionista, ce l'ho io e Walter e basta, non ce l'ha altro, non c'è uno. Questo proprio no, non esiste, non l'ho mai visto. Quella è valutata dai 450 ai $500. Ripeto, la prima volta che la vedo, forse è rara. Grande mia, la vedo così, una bella lunga, alta, lui quanto è alta. Bella, una sintonia continua. Apritela bene, guarda, di tasti, ma c'ha di tutto e di più. Bellissima radio. Bella. Flavio, ma fermata ciò? No, io non sento niente. Ok. Ho capito. Non ho mai vista quella lì, quel modello. Mai visto. Già, ebbe un modello raro, vale un bel soldo. Sì, è arrivato dall'America quello. È arrivato dall'American, capito? Ah, bella, questa funziona perfettamente. Qua su 10 una sola non accende, devo vedere perché non accende. Questa è a 220, questa è a 220. Cappa. E quella lì a sintonia continua. Sullo scaffale. ti mando la foto dello scaffale da su. Quelle cavolo non si toccano quelle sono rare, no. Cioè, hanno un bel valore, c'hanno. Comunque, mi adesso ti mando tutto lo scaffale completo, mi aspetto. Sì, ma la pipina cos'è? Radiamatoriale la pipina. Ah. Il tuo è la pipina. Sì. Allora, quello che c'è su ce l'ho avuto anch'io, il Washington. Cos'è Unitet? Quello là. Ehi, c'è lo standard, quello di base. Guarda quello Royce, americano. Quel modello lì, guarda che bello è. L'ho cromato. Sì. C'è il Sommer, il campo dell'FT250. E quante quelle le avevo date quando mi sono trasferito, perché erano un bel, lavorate a un collezionista, capito? Il resto ce li ho ancora. Sì. Già ho capito che l'hai data. Allora, ma come la tiene lì? Lascia prego. Sento che ti faccio andare anche l'FT757, il GX2, che è un bel che non lo faccio andare, con cazzo di microfono c'è attacco qua. L'alone se ci mettiamo, ci mettiamo l'alone, no, l'MC60 con l'adattatore da Kenwood a Yaris, aspetta. Sei ritornata agli origini. Sì, vabbè, più o meno, questo 757 GX2 il CAT System, però è con l'MC60. Certo, una fagosa, Una taguba? Sì. Infatti, la lattina siamo il grandi sopra. Ciappa. Io ti faccio, sono questo da trattare. Ma già va bene, dai. Perché non va bene? L'importante è che ti fai sentire e vivi anche abbastanza bene. Cappa, adesso sei con uno strumento professionale, giusto? Sì, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9+20. Già va bene, dai. Guarda, ti posso dire che su quelli che sto ascoltando ultimamente sei forse quello che arriva più forte di tutti, vabbè, tranne Pomponio e Roberto Quadrato che sono vicini. Io sono latte dolce, no, non sono vicino, Gianni liscio arriva 9+10, liscio col baracchino liscio, quando attacca il Cobra arriva 9+20, quanto è te? Dai, proviamo, vediamo un po', dai, abbassiamo tutto. 9+5. K. E così si è agganciato? Sì, sono agganciato così. Cosa ne vai? 9+5, 9+20. K, ho buttato giù i watt, non sono con i watt che dovrei avere. Buono, buono. Dove sono io, Antonio, un segnale più che ottimo. K. Adesso stasera volevo far scaldare un po' i motori, ho detto, vabbè. Facciamo scaldare i motori, dai. E intanto io avrei freddo, andava a accendere stufa. Cappa. Questo sta dando 20 watt modulati 40. 20 watt modulati 40, però questo non è tirato, Questo è originale, quindi da 35 watt in AM e 100 in FM e 100 in SSB. Questo è originale. Ma anche questa è la vetrina, Questa è la vetrina, anche questo. Un po' di alternata c'hai. Alternata? E come mai? Non lo so. Ancora alternata, certo. ventina, dai, 30. E io va bene. Ma vedi che state matta, tu, dove state matta? Che ci sono i connettori pieni di cosa, no? Di silice, qualcosa che, cosa che si deposita, quindi non posso neanche fare passaggi lunghi, sono attualmente con 10 watt, ma se ne arrivano due è troppo. Dai, rimango in ascolto, Claudio, che sto lavorando su un'altra cosa. Lo so. Ho troppo basso segnale, Giaffa, come modulazione può anche andare, però come segnale sei troppo basso, dovresti aumentare leggermente, boh, dare un po' più di potenza. Io sto andando con 20 watt e no, non sto spingendo più di tanto, però se ci sono gli americani, se furati che mi splatterano il K, anche gli HF mi splatterano, boh, dal canale 11. Se una cosa è impossibile, sotto i canali è così, stanno arrivando dappertutto. Va bene, ti devo lasciare che sto facendo una cosa in digit. Una attenzione, Claudio, mi sente? Ehi, Anto, troppo nasino, sì. Va bene, Gianfra, già sono qua, intanto, dai, che anch'io sto mettendo a posto un po' di roba. Avanti, Anto. Fa questo il coso, il cobra. Passo Gianfranco, buonasera. Ciao Bombolo, ben ascoltato. Niente, devo scappare perché sto facendo una cosa un po' delicata, se mi distraggo è un macello. Buona serata a tutti. Riprendi Claudio. Ehi, hey, Gianfra, ci sentiamo dopo. Vabbè, tanto cos'è il 599 questo? Non si è uscito il radio, cosa hai detto? Hola, che lo uso poco. Ma cos'è, quello grande come quello che c'ha Gianni o diverso? No, è vicolare. Ma che cazzo, non è molto, capito? E vabbè, già esce comunque. Un po' nasina la modulazione, però già va bene. Niente, e anche questo lo stress è sempre calato, mi sto usando poco il keyboard, anzi diciamo questo lo uso un po' di più perché lo uso anche in 10 metri, ma il 140 è sempre calato, dopo lo attacco, dopo lo accendo, lo vedo. Ho capito, ho detto c'è anche il 140, c'ho tutta la linea del 140, io 140, T250, la convertitore automatico di linea, PS50, LSP430, tutta la linea c'ho. K, questa è la... Ora, questo è il maracchino che sto usando, te l'ho mandato. Cazzo, siccome mi stanno girando le palle, cazzo, sempre splatterando, ho dovuto accendere per forza questo. Chi sono pigliadoiti? Ho capito. Aspetta che lo guardo, che non ce l'ho qua al telefono, ce l'ho nel salone. Ehi, H, non c'è problema. È un bel baracchino quello. Ehi, già, ora. Già, fino a giunati. Questo è forse il più moderno che ho. Aspetta, al telefono. Ehi, H. È il più moderno che ho, questo. Io devo fare un attimo. Ora. Devo fare un attimo di bianco perché devo cucinare. Ehi, sentiamolo. Cappa. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno. Ci sono io. Gianni, ci sono io, ma sto facendo. Uscita a tratti, anzi, buonasera. Sì, buonasera, facendo da mangiare, c'era Claudio, c'era. Io sto facendo da mangiare, ok. Fai tranquillo. Vabbè, se c'è qualcuno se lo spengo, non c'è problema. Lascia acceso Gianni. Ciao Antonio, Claudio se sei in ascolto, buonasera, ciao Gianni di nuovo. Ciao Carlo, ben sentito. Mi stavo già disperando. E niente, io lo stesso, prima ero ai fornelli e mi sto cucinando fuori i piselli. Avevo voglia di fare uova con piselli, quindi mi sono fatto una cipolla tutta minutata, un po' di olio, faccio un buttato di piselli, l'acqua, il sale, cuocio fino a poco, faccio le uova con i piselli. A proposito di piselli mi sono ricordato la barzelletta. Nara Nara. Oh, sono qua io, ci sentiamo dopo, c'è un telefono. Ehi, acqua, ciao. Allora, la moglie, il marito dice alla moglie, ma che cosa hai messo, il Viagra nel minestrone? E la moglie, no, perché? Ci sono i piselli tutti duri. un po' di confusione, dai, si fa. Aspetta, dammi un secondo solo, arrivo subito che è a fuoco già. Ehi, cosa ci metti? Anche la pancetta? Un po' di puzza di quella bella. Affumicata, che io faccio così. E in più ci aggiungo la scorza dell'arancio. Prova, li fa buonissimi, dolci dolci. Eccomi già, no, alla fine poi di consumare l'acqua è stato tutto brutto, ho spento tutto. Mi hai sentito? Ho detto che io ci aggiungo anche la scorza dell'arancio e li addolcisce molto. Non ne ho arancio adesso però, li lascio così, già è dolce la cipolla. Infatti, ma vabbè, comunque io li faccio così, li metto due scorze d'arancio e naturalmente la batto bene perché si sa che li medicano, li fanno. E vabbè, comunque già sono buoni, poi ci metto le uova in mezzo e via. Sì, dai, io da tanto che non ne mangiavo e allora ho detto, tanto è quello di, ho dei panini belli belli, poi mangio la frutta e sono a posto. Domani mattina ho ancora altri due tour, domani dopodomani e poi libero un giorno e poi rientro di sera, praticamente ho quasi due giorni, no, perché stacchi di mattina 13, quindi c'è tutto il pomeriggio, capito, libero, il giorno dopo tutto intero, poi c'è la mattina del giorno successivo e rientro di pomeriggio, è come avere due giorni, capito? Vabbè, almeno i riposi ve li danno, dai, se non altro, almeno quello. Vabbè. Lavoro, lavoro, purtroppo bisogna sacrificarsi da quando si fa in pensione. Vabbè, piano piano, infatti mi stavo guardando il prospetto di domani che abbiamo lanciato per lavoro e quindi chi fa il prospetto la sera lo pubblica. Domani è il primo volo alle 7, l'altro alle 7.10, l'altro alle 7.55, uno alle 8.15, l'altro alle 8.50, uno alle 9.30, poi c'è un altro Fiumicino alle 10.50, Parigi Orlì 10.55, Linate 11.10, poi c'è Venezia alle 12.25, Katowice 12.30, Barcellona 13.05, Bergamo 13.15, Bologna 13.40 e a seguire quel pomeriggio ce la sbucciano gli altri, capito? Consecutivi proprio, uno dopo l'altro. Esatto, poi sto guardando i numeri, 150, 161, 180, 187, 186, 198, 10, capito? Poi tutto i voli dei paesi dell'est, tipo Budapest, Bratislava, Katowice, quei voli lì sono strapieni perché per loro le temperature che abbiamo noi sono ancora estive, capito? Infatti vedi tutti in maglietta, in la mattina presto, partendo, capito? In maglietta e in infradito. E loro sentono caldo, capito? Perché sono abituati a climi più frizzanti dei nostri. Quando ero a Garda, al lago di Garda, in albergo, noi avevamo la stanza giù col giardino, col prato all'inglese, e poi c'era la piscina. Beh, alle 7:30 c'erano questi tedeschi che ci facevano il bagno alle 7:30 in piscina. Non temono il fuoco, capito? Noi siamo più freddolosi, abituati alle temperature calde, come sentiamo a Benresco ci ritiriamo. E abbiamo fatto amicizia con questi tedeschi, lui era un restauratore, cioè un restauratore di mobili antichi, eccetera, eccetera. mia figlia giocava con la bambina loro e abbiamo fatto amicizia anche noi, capito? Ho capito. E poi questo fine settimana abbiamo il cambio dell'ora, capito? Torniamo indietro di un'ora. Ah, che palle. Vabbè, ci abitueremo di nuovo. Perché adesso la mattina mi sono sorto alle 9:15, alle 9. E dopo chissà come sarà. E infatti, io spero che lo eliminino questa cosa del più dell'ora, cioè in quasi tutta Europa mi sa che siamo con un'altra nazione, adesso non mi ricordi, ad avere questo cambio dell'ora. Se le altre nazioni hanno oro, io ho visto per Stati Uniti, capito, Inghilterra, noi siamo sempre con questo cambio di ora, si risparmia. Secondo me non è vero niente che si risparmia, la cosa spero che scompaia, capito? Teniamo un orario, sempre l'ora legale, tutto e basta. Ma avevano detto che dovevano abolirla, poi non l'hanno mai fatto. E adesso a noi anche da gennaio ci metteranno servizio porta a porta anche per la recenza urbana. Qua è passato uno del comune, sarà, come posso dire, 3 settimane fa, dice buongiorno, ha suonato al citofono, no, ho detto chi è, perché abbiamo il video citofono, dice io sono un tecnico del comune, cercavo se più possibile il nome dell'amministratore, gli ho detto guardi, le apre il portone, c'è la bacheca e trova tutto lì, perché dice da gennaio stipiamo qua tutto via Brunisse da Alta, Monte, eccetera, tutto il servizio porta a porta per la necessità urbana, quindi leveranno i cassonetti, capito? Bedugasini. Lo sai cosa c'è? Che io dico, se uno pulisce il pesce e non è già giornata per buttare l'umido, cosa c'è? La butta il pesce in casa. Esatto, costringono le persone a tenere i fagottini, i fazzoletti dentro casa, perché se pure lo chiudi in una buta lo devi mettere pure nel terrazzo, non è da tenere dentro casa, perché quello fa puzza e non va via, poi capito, devi stare con la finestra aperta, se c'è il terrazzo va bene, poi lo metti nel terrazzo, te ne dimentichi e magari rimane più di 3-4 giorni, diventa ancora più insolente. Arriva Osh, che se ti dimentichi la giornata per buttarlo devi aspettare. Volta, un casino, qua c'è troppa gente, allora dove abita la Maximo gli hanno messo i cassonetti interni nel cortile. Sono qua, Ciao Claudio. Ciao Claudio. Ciao Carlo, ciao Gianni. È un casino adesso con i cassonetti, è un casino. Vabbè, qua vengono a prenderla. Anche noi ci abbiamo la differenziata, io ne ho due però solo, ne ho fatto solo due, capito? La plastica e il cartone, quando esco io la porto a Sassari, me la futti nulla. E allora Carletto, com'è? Stavo dicendo a Gianni, ho la cena quasi pronta, mi sono cucinato un po' di piselli e poi ci metto un po' di uova e ne avevo desiderio e quindi mi sono dato un po' alla cucina stasera. Qui poi adesso che ho finito, ho acceso qua, ero sulla scrivania, computer, ho acceso la radio, ho sentito Gianni chiamare. Prima se non sbaglio c'era Antonio, capito, l'ho sentito un anno, però forse era impegnato col bambino. Con Gianni stavamo appunto parlando che leveranno tutti i cassonetti, qua saranno zona vita alta e luna e sole, servizio porta a porta, tutti i contenitori fuori, qua i palazzoni dove abitano 20-25 famiglie, a parte il mio che è un'eccezione, che siamo pochissimi, siamo 5 famiglie solamente, capito? Ma tutti gli altri sono palazzi grandi, che non so come faranno a mettere tutti i punti fuori, io non lo so. Noi siamo 14 a palazzo. Già le mettono, caro, non ti preoccupare, già le mettono, non ne hanno problemi. Li mettono. Lo so. Vabbè, pazienza, però bisogna farla questa cosa, perché altrimenti come ricordo di Carbonazzi, ancora non ho fatto niente. No, quello è un condominio troppo grande, capito? È un casino. Però fuori nella strada ci sono tre postazioni, una all'incrocio. esempio via Meles con 6 cassonetti, tutti di diverso colore uno dall'altro, se ce n'è a fianco alla palazzo dove abitavo io prima e se ce n'è dove c'è l'edicola. Ecco, tutta la terapia dei cassonetti, infatti, d'estate. Ne poco di mocca, non puoi stare nel poggiolo, cazzo che ti assalisce le mosche, vai già. No, Antonio stava parlando con me poco fa, sì, ho sentito un attimo Antonio che stava provando forse la radio, sentivo hola, ho riconosciuto la voce, da un minuto ho sentito silenzio, ero al computer, poi ho sentito già, sono entrato. E è andato a cucinare. Sì, stavamo provando un paio di baracchini, stavo provando anch'io un Cobra, che è un Cobra 40 canale, stavo provando, esce benissimo anche quello, poi l'Inoiti stavo provando, qualche altro ne ho provato, ma non legge più gana, ho tolto tutto perché qua se non devo mettere uno sopra l'altro ed è una rottura di balle, però su 10 che ne ho provato già 9 funzionano perfettamente, uno non accende, ma sicuramente c'è il fusibile bruciato. Ho capito. Niente, quindi insomma, già ne hai qualcuno anche tu Claudio di baracchino e di radio, capisco, parliamo di passione, si fa a prenderne di tutti i tipi, capito? Sì, adesso sono arrivato a averne anche 50 tra veicolari e base, una cinquantina, 50-60, poi mi sono rotto le balle, non ne ho fatto più perché ci vuole un sacco di posto, caro, quindi mi sono tenuto quelli insomma più che mi piacevano di più, che poi erano insomma anche delle cose affettive, e adesso le ho tutelate, non basta. Ma perché tu non hai mai visto la mia sala radio? Sì, ma forse qualche foto forse che avevi messo su WhatsApp, capito? Tu c'hai tutta una camera dedicata con scrivanie varie, tutte le altattine, mi ricordo, con le mappe, eccetera. Sì, mi ricordo, avevo visto qualcosa. Sì, vai su www.rz.com e c'è la mia sala radio, IS0 di FB, clicchi IS0 di FB e c'è tutto quello che ho. Capito? C'è la sala radio con tutte le radio, le postazioni, le cose, insomma, varie cose. E ma ci vuole, credimi, mi ero promesso di fare solo la parte amatoriale, ma poi alla fin fine è inutile, ce li hai, le lasci lì, questi scaffali, dentro gli armadi, tutto pieno, quindi mia moglie ha detto toglimi tutto, mettiteli nella tua stanza, ne voglio. Ogni volta che apro l'armadio c'è una radio, apro l'armadio c'è una radio. Però alla fine me le sono portate tutte qua e me le sto tutte risistemando, mettendo in ordine, ho fatto fare una scaffalatura particolare, in modo che ci stanno tutti i veicolari in due piani e sotto tutti in base, capito? E se no è un casino, vai già. Sì, vabbè, io già ne ho tenuto poche, io ne ho 4 in tutto e vanno bene così, io ho tenuto le più performanti, quelle che mi piacciono di più, che mi danno più soddisfazione alla mia vista. Lo so già, ma va bene, 4 baracchini va bene, capito? E se ne hai per dire 2 basi o 3 basi sono baracchini e te li gestisci. Cazzo, meno c'è tutta la parte amatoriale già, la parte amatoriale è pesante e cominci a avere tutta la linea la linea della ICOM, che ne ho 4 ICOM, capito? Tutte le V e le U sono tutti basi o veicolari, non li posso vedere, le V e le U che sono basi lo stesso, sono sempre 2 radio perché sono separate. Tutta la linea dei 10 metri, anche quella è un'altra HF, poi l'altra dei 40 metri è un'altra HF, cioè inizi a gestire tutta la parte amatoriale, sono molte radio, perché mi gestire la parte amatoriale, poi va bene, tutta la parte CB, a parte quelle che vedi che non usi, però ce li hai, le devi accendere, devi usarle come sto facendo in questi giorni. Ci vuole un bel posto, io fortunatamente già ne ho, non andava qua la mia sala radio, andava nell'altra stanza che c'ho fuori, una stanza grande, e non l'ho finita, non avevo voglia di finirla, di fare, e mia moglie ci ha fatto la lavanderia, e quindi me l'ha fottuta, ha detto vabbè, ti hai preso quella, tu allora io mi prendo la cameretta, e ci ho preso la cameretta che è un pochino più grande di quella che aveva nel corridoio del caffè io dietro, ho fatto tra tutti i casi, va bene così. Sì, interessante, ci sei sistemato. Io dando di tirirampa. Ha anche ragione, già. Ogni armadio, fai in camera sua, c'erano messo delle radio basi dentro l'armadio, e nell'altra cameretta c'erano tutti i microfoni, strumenti, rosmetti, alimentatori, balle varie, ho detto basta, ma hai rotto le balle, mi ha detto tu dimmi tutto e mettiti tutto nella tua cameretta, quella è la cameretta chiusa per le radio, allora mettiti tutto lì dentro, non voglio avere, quindi la roba che non uso me la sono messa in questo armadio che ho qua, no, nella sala radio, e il resto l'ho messo tutto in esposizione. Vai Carlè. Hai fatto bene, così c'hai tutta una stanza dedicata e non rompi a nessuno e c'hai tutto là. Sì. Io adesso già sono solo, non do fastidio a nessuno. E mi ho fatto fare una scrivania da falegname, camera da letto, cabina armadio, capito, tutta fatta da falegname e quindi mi sono fatto fare una cassettiera con tre cassettoni grandi. Poi c'è una tastina con due ripiani e ho computer stampante e mi ho fatto una piccola e modesta stazione qua su, capito, sulla scrivania e c'ho il computer, me lo sono preso nuovo, ho un Asus di quelli only one, tutto un pezzo, un monitor, non ha il case, tastiera e mouse senza filo, tutto wireless, monitor da 27 pollici bianco e argento. Ed è uno spettacolo di computer, praticamente lo puoi staccare, mettertelo anche nel tavolo in cucina, capito? E non ha fili, capito? Colleghi solo lui, la fina e boom. Oh. Bello, va bene. Sotto una bella truppa, ma bisogna fare le cose, bisogna farle, se no è un casino. Tu se c'è il computer vai su qrz.com, digiti il mio nominativo, IS0 DFB. E ti dà tutto quello che ho, tutto, dalla Z, quali siano due o tre pagine, le cose che la mia pagina di QRZ ti dà, capito? Ripeti già. Calagar, a me non ti fai gli occhi, dai, quando ti giri ti guardi tutte le radio. A me, guarda, è inutile che mi dica, per la radio esce bene e cose, ma mi deve dare anche la soddisfazione quando la guardo, mi deve piacere. No, ma anche io poi sono amante anche del vintage, delle cose, io quando accendo il Sommer Camp l'effetti 250, che è una bestia enorme, grandissima, grande quanto un 940, forse anche più grande, ma cioè ti parlano di scala meccanica, tutta roba di vecchia generazione, devi saperlo usare naturalmente, però c'è l'occhio, sono belle cose, ma tutti gli HF sono belli, per carità, e anche i marachini, sono marachini molto belli, Galaxy, insomma tutti quelli base mi piacciono, i veicolari poco, ma i base mi piacciono tutti, capito? Non so se l'avevi vista tu, no? Io l'ho sistemato, ho fatto una L dove c'è tutta la parte CB sulla prima base, poi è tutta la L di fronte o tutta la parte amatoriale, se no mi tolgo piedi, già c'ho 3 MC60, 3 Adonis, 2 SM20, tutti i microfoni CB, che quindi sono tutti da tavolo lo stesso, non dite di buoni. Dite di buoni. La moglie evita di entrare qua dentro perché si incazza, figurati. Vabbè. Anche a me piacciono molto le stazioni base per casa, però c'è qualche veicolare che mi piace, tipo quel Cobra che c'ho sotto, quello lì proprio come l'ho visto mi ha attirato subito. No, vabbè, Cobra ce l'ho io, ne ho due, ma io ho dei veicolari che sembrano base. Tu prendi il Simpson, il mio, il 120 canali, è enorme, è più grande addirittura del coso che c'hai tu, del Magno, ancora più grande di quello, il Magno ma è grande, questo è ancora più grande, c'è un monopolone per la fine del mondo, bello anche quello, ma dove li metti, a saperti. Tornati Carlo. Sì, belle cose, io diciamo sarebbe stato il mio sogno quello di farmi così una diciamo stazione con la 27, solo che prima di tutto c'era la famiglia, eccetera, adesso è andata come è andata, per cui dai, mi accontento del proposta e bisogna fare così. Importante è tirare avanti, capito, e niente, quando c'è un attimo libero, fare chiacchiere e poi pian pianino si fa tutto il resto. Avanti Gianni, riprendi tu. E dopo quando vai in pensione ti attrezzi bene. Allora, e piano piano si fa tutto, dai. Io ci sono passato, lo so com'è la situazione, quindi sono andato avanti lo stesso, dai. Eh sì, poi pian pianino, se riesco qua a mettere l'antenna sul tetto, poi ho fatto bingo, capito? Piano piano però voglio entrare, non subito così a gamba tesa, quando ci sarà modo, magari un'occasione di dire ma c'ho questo